Sarà un'altra lunga giornata di confronto tra gli schieramenti, quella che inizierà tra mezz'ora a Palazzo Madama, una giornata che nelle intenzioni del governo dovrebbe portare al varo della manovra economica per il 2008. Ma il centro-sinistra dovrà fare i conti con l'ostruzionismo dell'opposizione, che punta a far slittare a domani il via libera. Ogni giorno in più che il provvedimento è a Palazzo Madama è tempo in più per il centrodestra per cercare di logorare il risicato vantaggio della coalizione di governo. Romano Prodi mostra però tranquillità, si dice certo del passaggio della finanziaria. In realtà a Palazzo Chigi si contano e si ricontano i voti a disposizione. L'asticella della salvezza per il Premier segna quota 160, come il numero dei senatori del centrosinistra senza l'apporto del dissidente Turigliatto, ma con il sostegno dei senatori a vita Montalcini, Scalfaro e Colombo. Fin qui le certezze. Vi dovrebbe essere poi il sì a malincuore dell'altro dissidente Rossi e l'appoggio di Andreotti, voti che potrebbero però essere vanificati dal no dell'ultima ora dei liberal democratici di Dini. Vincenzo Miglietta, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma.